Letture di Radio 24. In occasione dell'uscita del primo volume dell'Atlante della letteratura italiana in Audi, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, Il Sole è 24 ore propone un gioco ai propri lettori. Si tratta di individuare un luogo e una data in cui sia successo qualcosa di decisivo per la civiltà letteraria italiana. Maggiori dettagli sul sito www.ilsole24ore.com nella sezione Cultura. In attesa di avere i contributi dei lettori, nell'inserto culturale domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi, vengono proposti gli interventi di alcuni letterati che hanno accettato di partecipare al gioco. Ecco la risposta di Salvatore Nigro, critico e saggista. Date e luoghi non sono semplici tacche nel tempo e nello spazio. Sono infatti capaci di estensioni narrative. Si sfili una data, notte del 26 marzo del 1938. La si collochi nello scenario mobile di un piroscafo diretto a Napoli. In una cabina dorme Ettore Majorana. Il giovane fisico non arriva a destinazione. Non si presenta agli appuntamenti. Scompare nella notte. È un fatto, ma è anche una relazione narrativa. Contiene già un futuro di storie, non ancora narrate. Negli anni 1956 e 57, uno scrittore segreto tenta una storia fantastica. Si piega sul foglio bianco. Scrive una data, 1938. È l'anno in cui, secondo lo scrittore, il cui nome è Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il grecista Rosario Lacciura accoglie l'invito della Sirena Ligea. Il vecchio professore si è imbarcato sul Rex che naviga verso Napoli. Ha un appuntamento accademico, come Majorana. E come Majorana non arriva all'incontro. Il professore è salito in coperta e si è lasciato sedurre dalla creatura marina. Ha raggiunto la sirena in fondo al mare, dove tutto è silenziosa quiete. La scomparsa di Majorana anticipa la scomparsa di Lacciura sulle acque stregate del Golfo di Napoli. Il racconto di Tomasi di Lampedusa narrativizza la verità fantastica di un mistero storico. La vicenda di Majorana e il racconto sono in rapporto di reciprocità. Una data e un luogo sono diventati uno spazio narrativo, dentro il quale, tra incontri mancati e tracolli psichici, tra realtà e finzione, il caso Majorana si è costituito come archetipo di tutte le scomparse, di tutte le fughe dal mondo, di fisici, matematici, filosofi, economisti, che caratterizzano l'immaginario letterario e cinematografico, non solo italiano, del secolo scorso. E, sia detto tra parentesi, la catastrofe di Lacciura è preparata nell'anno 1887 nel cuore del racconto di Lampedusa, che ha per cornice gli incontri del professore con un giovane giornalista in un caffè torinese di Via Po, dall'abbraccio con una bella bestia, con una seducente sirena. Stavolta Lampedusa ha profetizzato, anticipandola di poco, di appena 2 anni, e dislocandola nell'aggiù di una Sicilia mistica, la catastrofe di Nietzsche che in Via Po gettò le braccia al collo a un cavallo. Nella letteratura esistono anche i plagi per anticipazione. A volte basta truccare date e luoghi. La letteratura sa come inventare la realtà. Avete ascoltato la lettura della risposta di Salvatore Nigro al quesito proposto dal Sole 24 Ore sui luoghi e le date che hanno avuto un ruolo decisivo nella cultura letteraria italiana. Sentiamo ora come ha risposto Filippo Laporta, critico e saggista. New York, ottobre 1966. Oriana Fallaci intervista per l'Europeo Pierpaolo Pasolini. Innamorato dell'America, benché non abbia mai amato la sua letteratura, tranne Melville e Ginsberg, e poi di quella città magica, travolgente, bellissima, dei militanti della New Left, della loro ribellione purissima e dionisiaca. Li considera, da marxista indipendente quale si dichiara, mistici della democrazia, radicali e non violenti come i primi cristiani. Le racconta di aver assistito a questa scena. Mentre sfila un minaccioso corteo di destra, favorevole ai bombardamenti su Hanoi, 3 giovani in un angolo cantano canzoni tristi, pacifiste e di protesta, e commenta: «Non un insulto, un gesto di ostilità. E questa è la cosa più bella che ho visto nella mia vita. Questa è una cosa che non dimenticherò finché vivo». Poi si mette a parlare degli intellettuali, di studenti universitari anche scandalosamente ignoranti. Non sanno chi siano Rimbaud e Apollinaire, ma che pure hanno verso la cultura un rispetto pieno di timore, Umiltà. In particolare si sofferma su uno studioso americano da lui incontrato qualche sera prima, coltissimo però timido, quasi spaventato dalla sua cultura, non come Umberto Eco, che conosce tutto lo scibile e te lo vomita in faccia con l'aria più indifferente. È come se tu ascoltassi un robot. Mentre un intellettuale americano, per quanto erudito, non si considera mai padrone della sua sapienza. Neanche un sociologo visionario come Pasolini poteva immaginare che 20 anni dopo Eco avrebbe divulgato il suo scibile in personaggi e storie romanzesche che danno brividi culturali a lettori illusoriamente convinti di diventare così padroni del sapere. Per Pasolini, lucido diagnosta della nuova classe media infarcita di citazioni, la cultura è invece un fardello, qualcosa che può anche spaventare e che nessuno possiede. Un'interrogazione pericolosamente sospesa sulle nostre esistenze. Avete ascoltato la lettura della risposta di Filippo Laporta al quesito proposto dal Sole 24 Ore sui luoghi e le date che hanno avuto un ruolo decisivo nella cultura letteraria italiana. Sentiamo ora come ha risposto Giulio Mozzi, scrittore. 30 aprile 1988. Il 28enne padovano Giulio Mozzi, impiegato nell'ufficio stampa della Confartigianato del Veneto, è a Roma per un convegno sulle tasse. Avendo un paio d'ore libere, si ficca in una libreria dalle parti della stazione Termini. Lì trova e sfoglia, e compera, un libretto intitolato Trasfigurazioni. È un libretto di poesie, pubblicato da una delle più tremende case editrici a pagamento. Tuttavia a Mozzi le poesie paiono belle, e la sua meraviglia cresce quando si accorge che il libretto è pubblicato nel 1987, che l'autrice, tale Laura Pugno, è nata nel 1970. Santi Dio, pensa Mozzi, questa qui ha scritto queste cose a 16, 17 anni. Va alla SIP, recupera i telefoni di tutti i Pugno di Roma, solo 8 per fortuna, telefona finché gli risponde la mamma di Laura Pugno. Un'ora dopo, il Mozzi e la Pugno, nel salotto di casa Pugno, fanno conoscenza. Quel giorno, Laura Pugno compie 18 anni e decide di fidarsi, con un minimo di cautela iniziale, di questo sconosciuto che le è piombato in casa. Nel corso degli anni, Mozzi e Pugno si scambieranno alcune centinaia di lettere. 14 febbraio 1991. Pugno è a Londra, Erasmus. Mozzi fa un salto a trovarla. San Valentino, sia chiaro, non c'entra niente. Il viaggio è pagato dalla CISL. Pugno racconta a Mozzi di aver subito un furto. Tornato a Padova, nelle sere del 16 e del 17 febbraio, Mozzi scrive il suo primo racconto, Lettera accompagnatoria, nel quale finge di essere l'autore del furto. 3 novembre 1991. A Roma, durante una conversazione su e giù per Viale Valpadana, Pugno convince Mozzi a fondare una rivista. 16 dicembre 1991. La rivista è pronta. Si chiama Le Me. È in 40 copie. Provvede a spedirla a Mozzi da Padova. Contiene il racconto di qui sopra e alcune poesie, in italiano e in inglese, di Pugno. 2 copie restano a Pugno e Mozzi. 32 vengono spedite a riviste letterarie in Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti d'America. 4 vengono spedite in Italia. Una di queste a Pier Vittorio Tondelli. Pugno e Mozzi non lo sanno, lo scoprono il giorno dopo, ma quello stesso giorno Tondelli muore. 15 gennaio 1992. Marco Lodoli, destinatario di una delle 4 copie italiane di Le Me, telefona a Mozzi. 30 aprile 1993. Nel 5° anniversario dell'incontro tra Pugno e Mozzi, esce per le edizioni Teoria, diretta da Paolo Repetti, Questo è il giardino, libro d'esordio di Mozzi. 30 aprile 2002. Nel 14° anniversario dell'incontro tra Pugno e Mozzi, iniziano le pubblicazioni della collana Indicativo presente dell'editore Sironi, curata dal Mozzi fino al 2008. Maggio 2007. Ai primi del mese, mancando per pochi giorni il 19° anniversario dell'incontro tra Pugno e Mozzi, esce presso Einaudi il romanzo di Pugno, Sirene. 30 aprile 2008. Nel 20° anniversario dell'incontro tra Pugno e Mozzi, si apre a Reggio Emilia la mostra fotografica di Elio Mazzacane, Sirene, ispirata al romanzo di Pugno. L'anniversario viene celebrato con una cena in trattoria tipica. Il cibo, me lo ricordo bene, era tremendo. Ma tutto ciò è stato decisivo per la civiltà letteraria italiana? Senz'altro sì. L'agire di Mozzi ha dimostrato il valore decisivo della curiosità. L'agire di Pugno ha dimostrato il valore decisivo della consapevolezza del proprio valore. L'agire di Lodoli ha dimostrato il valore decisivo della generosità. L'agire di Repetti ha dimostrato il valore decisivo del coraggio, eccetera. Peraltro, pulvis es et in pulverem reverteris. Nulla è decisivo, se non il disinteresse. Solo la polvere è disinteressata. Avete ascoltato la lettura della risposta di Giulio Mozzi al quesito proposto dal Sole 24 Ore sui luoghi e le date che hanno avuto un ruolo decisivo nella cultura letteraria italiana. Le risposte degli autori interpellati sono pubblicati sul numero odierno del settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. L'invito è aperto anche ai lettori del Sole 24 Ore. Tutte le modalità di partecipazione sul sito www.ilsole24ore.com.